Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Durante il sonno il cervello è impegnato nel replay dei ricordi della giornata per consolidarli. Questo è quanto afferma una ricerca americana pubblicata sulla rivista Cell Reports, che contiamo con il professor Lino Nobili, neuropsichiatra infantile all'ospedale Gaslini di Genova. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Questo è un bellissimo studio che conferma uno studio fatto molti anni fa sugli animali, dimostrando che quando noi impariamo delle cose i nostri neuroni si attivano in una maniera molto particolare, legata proprio a quella task, quella funzione che abbiamo appreso. La cosa estremamente interessante del lavoro è che questi neuroni si riattivano nello stesso modo nel momento in cui riposiamo e specialmente durante le fasi di sonno profondo. Questo cosa vuol dire? Che i neuroni per imparare le cose devono dormire durante il sonno, ripetono le stesse attività, come se noi facessimo ginnastica più volte per tenerci in forma. Professor Nobili, dormendo si impara, ma dormendo ci manteniamo anche in forma. Sì, esattamente, questa è una cosa di cui abbiamo parlato più volte. Il sonno è importante per la memoria, nei bambini, negli adulti, per tutte le fasce d'età, ma il sonno è importante anche per il nostro fisico. Il sonno interviene nella regolazione anche dei nostri valori della pressione arteriosa, della nostra frequenza cardiaca e anche della produzione dei nostri ormoni, che sono assolutamente legati alla loro fisiologia, al mantenimento di una buona organizzazione del sonno. Quindi specialmente in questo periodo in cui siamo un po' purtroppo soggetti anche alla mancanza di qualche sincronizzatore esterno grazie a questa reclusione un po' sociale che abbiamo vissuto, è importante cercare sempre di mantenere dei ritmi sonno-veglia più costanti e più attinenti alla fisiologia delle singole persone, perché ognuno di noi ha il suo proprio ritmo. Grazie professor Nobili per essere stato con noi, le auguro un buon weekend, buona giornata. Grazie a lei, grazie a tutti. Per oggi è tutto, io vi lascio come sempre alle pillole di salute che potete trovare sulla nostra pagina Facebook. Oggi insieme a noi il dottor Lorenzo Castellani, con cui parliamo dei luoghi comuni legati alle spalle ma anche alle nuove opportunità di diagnosi e di terapia. Buona giornata da Nicoletta, noi ci sentiamo domani a mezzogiorno per Obiettivo Salute Weekend. Non mancate, vi aspetto.